Abbiamo in collegamento Sentaeri e Paolo Zuccari per Acque Sporche da stasera fino al 13 al Sala 1 qui a Roma. Ben ritrovati a entrambi. Allora, ci eravamo sentiti un po' di tempo fa per un Otello che abbiamo ospitato qui al Radio Teatro, stavolta Ibsen. Raccontateci un po'. Allora sì, intanto l'Otello lo riprenderemo subito dopo l'Ibsen, dal 15 al 27 novembre, perché diciamo abbiamo deciso di fare una lunga ospitalità a Sala 1 di un mese circa, e faremo quindi 15 giorni a Acque Sporche, che è il testo di cui parliamo oggi, e poi 15 giorni riprenderemo l'Otello. Fa parte un po' di questa cosa che con Paolo Zuccari stiamo facendo da qualche anno, cioè di prendere dei classici e di riscriverli fortemente in maniera anche molto come dire, caratterizzata nel contemporaneo. E qui siamo partiti da un testo di Ibsen non fatto molto in Italia, Un nemico del popolo, che abbiamo deciso di riscrivere completamente, quindi si tratta di una scrittura poi originale, quindi diciamo che il testo di partenza è stato un pretesto di riscriverlo molto attualizzandolo a quello che sta succedendo oggi nel nostro paese, insomma, ma in generale forse nel mondo. Il testo originale parla di un piccolo paesino della Norvegia dove viene scoperto un'acqua termale, si fa un grande impianto di canalizzazione per quest'acqua termale per far nascere così, per portare un'economia in questo paesino sul turismo e diciamo così sui benefici dell'acqua termale, ma in realtà a lavori ultimati si scopre che questo impianto termale in realtà sta portando diciamo giù a valle nel paese un'acqua contaminata e non pulita, e quindi nasce tutta una questione fra due fratelli, uno è sindaco, l'altro è un medico scienziato, su diciamo così che cosa fare a questo punto, scoperta la non purezza delle acque, addirittura forse la sua dannosità, e lì nasce si apre un problema etico, no? Tra politica e scienza, e in generale tra quello che è una realpolitik di oggi, occupazione, indotto, crescita e sviluppo economico, e la salute dei cittadini, come si può dire, insomma, proprio il benessere poi materiale delle persone che comunque devono soffrire di un'acqua che è un elemento vitale. Quindi insomma noi abbiamo fortemente scelto questa strada nel testo di Ibsen, che è quella di aprire la questione fra diciamo così sviluppo economico e sviluppo ambientale. Poi nascono tutta una serie di conseguenze che non sono neanche risolvibili dicendo qui sta il bene e qui sta il male, perché in realtà lo sviluppo economico è necessario per la crescita di certi paesi, specialmente di paesi che non hanno delle risorse primarie immediate, e dall'altra parte sicuramente c'è il problema che anche certo catastrofismo, chiamiamolo così, ecologico, non favorisce, non aiuta la consapevolezza dei cittadini. E quindi si apre una questione politica e anche sentimentale tra i due fratelli per capire qual è la maniera giusta di comunicare un pericolo, quello di comunicare una necessità rispetto a delle tematiche che si hanno. Questo è un po' il senso dello spettacolo. Noi l'abbiamo caratterizzato fortemente dentro la realtà italiana e abbiamo cercato fortemente di raccontare proprio quello che succede oggi a degli amministratori locali che si ritrovano a gestire delle emergenze, no? Adesso c'è appunto il problema del terremoto, no? Cosa significa una ricostruzione, che cosa significa la sicurezza, i tempi non aiutano l'immediatezza della risoluzione, insomma questa cosa noi volutamente non abbiamo scelto un punto di vista definitivo, ma la lasciamo aperta, la lasciamo un po' al pubblico che mano a mano cercherà insomma di capire insieme a noi che cos'è la complessità della gestione di oggi di tematiche come quelle ambientali e come quelle della sicurezza dei cittadini. E questa è un po' diciamo la base del nostro lavoro. Senti, mi passi anche Paolo, così ci alterniamo? Sì. Ok, adesso ti passo Paolo, che è il regista e l'interprete, lui farà il sindaco mentre io faccio il dottor Stock, io faccio lo scienziato, Paolo fa il politico, l'amministratore. Okay. Nel testo siamo poi anche due fratelli, appunto. Ok. Ciao. Ciao Paolo, ben ritrovato. grazie, ben ritrovato a te. Allora, ci racconti un po' come lavorate insieme su questo, come cioè, il progetto che state portando avanti sui classici rivisitati? Guarda, la prima cosa che facciamo è scriviamo, quindi passiamo un sacco di tempo insieme a scambiarci le idee sulla tematica che dovremmo affrontare. In questi due casi abbiamo dei testi di riferimento da cui siamo partiti, no? L'Otello nel Nemico del Popolo, e rispetto a questo cerchiamo di accumulare dei materiali sulla contemporaneità. E poi rispetto alla struttura del testo originale operiamo piano piano delle modifiche. In questo caso qua, l'ultimo, questo qua di Ibsen, praticamente possiamo parlare di un testo originale, insomma, perché di Ibsen è rimasto veramente soltanto proprio il nucleo, insomma, di questi due fratelli. Okay. E quindi, insomma, la prima cosa che facciamo è quella, anche la cosa che ci porta via più tempo, insomma, perché comunque scrivere è sempre la cosa più difficile, secondo me, di tutte. E quindi, insomma, niente, abbiamo passato un sacco di tempo a raccogliere materiali sui movimenti legati all'ecologia che ci sono oggi, di vario tipo, anche quelli più estremi. E la cosa che ci ha colpito di più, ma a partire da noi stessi, almeno parlo per me, è il fatto che non abbiamo una reale consapevolezza fino in fondo di quello che sta succedendo sul pianeta. È una cosa veramente strana, perché poi, insomma, dovrebbe essere la cosa più importante di tutte, e invece siamo stranamente sonnolenti, o comunque fiduciosi che si risolva da solo, oppure che non ci possa coinvolgere come generazione. Insomma, non c'è una ma questo è un fenomeno, diciamo, generale, globale, non è tanto legato agli individui singoli, è proprio come se le stesse, diciamo, no, realtà politiche che avrebbero questa responsabilità non ci pongono, diciamo, la cosa per l'importanza che in effetti ha. Questa è la cosa che ci ha colpito tantissimo quando abbiamo affrontato questa cosa qua, ma sì, ti dico, appunto, partendo anche da noi stessi, cioè da quanto diciamo nella nostra vita questo argomento lo contempliamo, sappiamo che c'è, eccetera, ma non lo mettiamo abbastanza al centro come sarebbe opportuno, no? Perché comunque che cosa c'è di più importante del mondo in cui viviamo? Niente, no? Sì. Eppure non è così, questa è una strana cosa dell'essere umano, diciamo, di questo periodo, no? Parlo di questo periodo da quando, insomma, la rivoluzione industriale ha portato proprio a una modifica dell'ecosfera, insomma, quindi della nostra stessa vita, le condizioni climatiche, eccetera. Quindi, diciamo, di solito apriamo così, poi dobbiamo decidere quanti personaggi ci sono, perché comunque ha sempre un lavoro anche di artigianato questo. E insomma, in questo caso qua la cosa importante per noi è stata che i contenuti, diciamo, le tematiche di natura civile vivessero teatralmente in modo attivo, cioè che lo spettatore potesse identificarsi con una storia che ha una grandissima forza narrativa e che ti porta a seguire lo scorrere degli eventi con grandissimo interesse, piuttosto che invece, no, stare lì a riflettere freddamente o razionalmente su delle tematiche. Sì. Magari queste cose qua non sempre, ma qualche volta magari fanno parte, no, del teatro di narrazione, che svolge un ruolo molto molto importante, no? Sì. Però al tempo stesso costruire proprio una storia dove queste tematiche stanno dentro i personaggi che si relazionano l'uno con gli altri, questo è, diciamo, un passaggio ulteriore di cui noi abbiamo sentito moltissimo il bisogno, insomma, no? Insomma, questo è poi il modo in cui procediamo, non so se mi sono spiegato. Abbastanza, direi. Senti Paolo, io chiuderei con una curiosità, sì, di nuovo con Hossein, che me ne aveva anticipato qualcosa prima quando ci siamo sentiti, per cui se mi ripassi lui andiamo a chiudere. Sì, te lo ripasso un attimo, aspetta che mi sono allontanato. Hossein. Tutto in diretta, questo è il bello. Ciao, grazie. Ciao Paolo, ciao. Ciao. Allora, dimmi, Fede. Allora, Os, rispetto all'attualizzazione del testo, tu mi dicevi pure prima dei riferimenti alla Fondazione Valle, visto, insomma, l'esperienza che... alla Fondazione Partecipata, insomma. Esatto, dici un po'. Grande esperimento politico che rimane lì aperto come una delle possibilità sicuramente della gestione del patrimonio pubblico e delle risorse pubbliche, che è la fondazione partecipata. Noi l'abbiamo messa dentro, insomma è una cosa che mi toccava molto le viscere, ancora sta lì aperta. Io penso che sia una delle ipotesi che abbiamo come comunità, quella di cominciare a interessarci e nello stesso tempo a partecipare anche attivamente, no, come cittadinanza proprio attiva, alle grandi questioni che ci riguardano e che riguardano il nostro futuro, il futuro del territorio e della nostra salute. Chiaramente, come in parte verificavamo anche nell'esperienza del Valle, forse non siamo ancora pronti per questa grande scommessa, cioè è un potenziale, ma un potenziale che va costruito anche individualmente, anche nelle coscienze dei singoli cittadini che vi partecipano, perché bisogna avere la capacità, insomma, di accogliere i tanti punti di vista, di trovare una sintesi, di rinunciare a qualcosa della propria convinzione, del proprio interesse personale. E perché poi bisogna forse imparare anche ad ascoltarci, ecco, questa è la questione più grossa, no? E purtroppo io credo che tante fondazioni ad interesse privato prevalgono su queste forme di partecipazione, perché hanno poi degli interessi più semplici da gestire, che sono interessi di tipo economico e personalistico. Mm-hmm. E bisogna imparare a capire insieme cosa significa essere una comunità, un collettivo di intelligenze, di persone che ragionano insieme per cambiare qualcosa. E c'è dentro questo spettacolo, ce l'abbiamo inserito e appunto poi vedrete. Vedremo. Bene. Allora, ricordiamo l'appuntamento. Tra l'altro qui davanti a me c'è tanta merda, sono Tony. Grande Tony, grande amico, un attore bravissimo dell'esperienza del Valle, e insomma ci conoscevamo anche prima. Sì, è vero. Siamo tanti e io spero che venite tutti a vederlo, perché comunque è qualcosa che riguarda ognuno di noi in questo momento, specialmente chi ha a cuore certi temi, certe problematiche, certi contenuti. Ricordiamolo. Allora, da oggi, primo novembre, debuttiamo il giorno dei morti per risuscitare, per essere vivi più che mai. Dunque, no, i morti sono domani comunque. Infatti, noi e i morti. Noi saremo umani e vivi invece che tanti e morti. Quindi, noi sono i morti invece. Oggi, da oggi fino al 13, sala 1. Fino al 13 di novembre. Esatto. E, lunedì facciamo riposo, ogni sera alle 21, domenica alle 18. Benissimo. Un abbraccio e a stasera. Ok, grazie, merda, a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.